I numeri, innanzitutto, sono poco meno di 47.000 le persone positive al virus, 7.000 i guariti, 5.500 i morti. Segnali positivi paiono arrivare dalla Lombardia, dove la crescita dei positivi è dimezzata, diminuita anche quella dei morti. Dopo quelli dalla Cina arrivano anche aiuti dalla Russia, mentre il nostro paese ha chiesto ufficialmente supporto al Pentagono. Ma il tema al centro di tutto restano i nuovi provvedimenti del governo, con il divieto di spostarsi dalla città nella quale ci si trova alle indicazioni per le attività che devono chiudere. Troppe poche, evidentemente, secondo i sindacati, che ieri sera hanno annunciato una mobilitazione che potrebbe arrivare fino allo sciopero generale. Nel frattempo, finalmente avanza l'ipotesi che possano saltare le Olimpiadi di Tokyo, che comunque il cui inizio comunque verrà rinviato. Il Canada fa sapere, tra l'altro, che non invierebbe i propri atleti. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ed eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, care amiche, cari amici, alle 6:30 minuti di questo lunedì 23 marzo con una nuova puntata di 24 Mattino e con l'inizio, come sempre, con quello che abbiamo decretato essere il nostro inno, Un piccolo segnale di speranza tutte le mattine, un piccolo segnale per farci coraggio, un Bob Marley che ci canta e ci dice: ogni piccola cosa andrà bene, tutto andrà bene. Per quanto sia dura, per quanto l'ora sia buia, per restare alla metafora molto spesso utilizzata, le parole molto spesso utilizzate in questi giorni, dalle parole di Churchill, arriverà il momento, E un modo per farci coraggio, non per dire che va tutto bene. E insomma, un po' di coraggio ci arriva dai numeri che sono stati diffusi ieri, Ci sono Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza e in redazione, e ci siete voi soprattutto. Vi aspetto come sempre al 349-238-6666. Le vostre voci via WhatsApp mandatecele, fateci sentire, fatemi sentire la vostra voce. Cosa fate? Come sta andando? Siete perplessi? Non sapete, sulla base delle ultime indicazioni del governo, se dovete andare al lavoro oppure no? Se la fabbrica, il luogo nel quale lavorate, riaprirà oppure no? Oppure fate un lavoro che vi costringe, cioè a uscire, ad andare? Ebbene, ditecelo, raccontatecelo. Come state? Come la state vivendo? Come sono queste giornate a casa, in famiglia, da soli, con i figli o senza? La spesa come va? Oh, ce la fate a fare la spesa? Perché è complicatissimo. Io oggi, finita la trasmissione, è esattamente quello che dovrò fare. Già mi preparo ad una fila infinita. Dai, dai, le vostre voci, forza. Iniziamo dunque dai numeri, come si diceva. Qualche segnale in controtendenza inizia ad arrivare, Lo sentiamo nelle parole del capo della Protezione Civile, Borrelli, via. I numeri di oggi sono dei numeri minori rispetto ai numeri che abbiamo dato ieri. In controtendenza, mi auguro e ci auguriamo tutti che questi numeri possano essere confermati nei prossimi giorni. Non bisogna comunque abbassare la guardia, tenere le misure che sono state adottate, rispettare le indicazioni che sono state date anche nei provvedimenti del governo. Abbiamo deciso di rinunciare, per così dire, in questo periodo alla parte un po' più aspra della polemica, però fatemi sollevare un dubbio, fatemi fare una domanda, che è la seguente. Quando è stata varata la prima stretta, il primo lockdown, per così dire, per quanto parziale, questo c'è stato detto queste regole noi vedremo gli effetti tra un paio di settimane, tra 20 giorni almeno. E allora c'era effettivamente l'esigenza, è una domanda, non la metto in termini polemici, di varare un'ulteriore stretta prima ancora di vedere gli effetti di quello che era successo con la prima? Tenete presente che dal punto di vista degli spostamenti gli ultimi dati ci dicono che sono stati effettuati 1.600.000 controlli e il tasso di regolarità, per così dire, è intorno al 95%, che insomma per noi italiani che passiamo per essere delle persone poco rispettose delle regole, devo dire, è notevole tutto sommato. È un punto di riflessione, ve lo metto là, e anche su questo le vostre opinioni sono benvenute. Non ho un'idea precisa su questo, perché lo dico sempre, siamo in terra incognita, non è facile capire cosa fare e che cosa succede. Il commissario Arcuri, che è la persona che è dedicata agli approvvigionamenti, cioè il governo l'ha scelto come l'uomo degli approvvigionamenti, quello che deve far sì che si ottengano nei giusti tempi le mascherine, tutti i mezzi, tutto quello che serve in sostanza, spiega così il suo ruolo. Noi siamo in guerra, io devo trovare le munizioni e devo far sì che questa guerra il nostro paese la vinca prima e meglio degli altri. E chiarisce, gli aiuti non sono arrivati solamente dalla Cina o dalla Russia. Abbiamo una rete di alleati. Chi sono questi alleati? La Francia ci ha regalato 1 milione di mascherine, la Germania ci ha mandato alcune decine di ventilatori, il presidente del Consiglio Conte, che governa questa macchina complicata, ha chiesto ed ottenuto dal presidente Putin di far arrivare in queste ore, arriveranno a Roma, la delegazione russa, alcuni aerei della Unione Sovietica che porteranno 180 medici, infermieri, ventilatori e mascherine. Sì, voce dal sen fuggita, l'avete sentito, ha detto Unione Sovietica. Va bene, comunque. Russia ovviamente. Ancora, il presidente della regione Fontana, della regione Lombardia: più di così non possiamo fare. Noi abbiamo fatto tutto, credo che questa sia l'ordinanza più restrittiva che si possa emanare nell'ambito di quelle che sono le competenze regionali. Ecco, oltre questo noi più di così non possiamo fare, l'abbiamo fatto convinti che fosse necessario farlo, l'abbiamo fatto convinti che l'unica strada sia quella di far capire alla gente che deve rimanere a casa. La mobilità nel frattempo in Lombardia, dice il vicepresidente della regione Sala, è scesa, ed è scesa di parecchio. Poi abbiamo di positivo anche che il dato della mobilità continua a scendere. A ieri siamo al 32% rispetto a una giornata normale. È chiaro che poi con questa ordinanza valuteremo poi, importante, la parte dei giorni feriali, cioè martedì avremo il dato di lunedì, e quindi possiamo fare una valutazione anche sul fatto che la mobilità, come crediamo, scenderà molto e quindi la gente rimane sempre più in casa. Un ascoltatore mi dice, non vuoi far polemica, sembrerebbe l'esatto contrario. No, non è questo, guardi, io in tutta sincerità penso che sia dovere anche di una trasmissione giornalistica porsi delle domande, no, sull'azione di governo, sulle azioni pubbliche. E a chi dice che l'avvio con quella canzone di Bob Marley non è rispettoso nei confronti delle vittime, ma noi abbiamo il massimo rispetto nei confronti delle vittime, la massima attenzione, anche nei confronti di chi è malato in questo momento, di chi si trova nelle terapie intensive, massimo rispetto nei confronti e anche amore nei confronti dei medici, degli infermieri, di chi lavora sul campo. Non è questo, cerchiamo di darci un po' di coraggio, è semplicemente questo. Saluto Livio Frigoli, che è direttore generale della Fondazione Sant'Erasmo di Legnano, gestisce una residenza per anziani. Frigoli, buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi, grazie. Allora, abbiamo ospitato venerdì una figura, per così dire, omologa alla sua, che gestisce una casa di riposo nel Bresciano, il quale ci ha dato un'immagine, devo dire, terribile, perché ci ha dato un'immagine di un numero di morti che potrebbe essere ampiamente sottostimato. Ci ha detto, abbiamo 22 vittime a oggi, cioè ci ha detto venerdì, 22 morti a venerdì, di cui solo uno testato con tampone e risultato positivo a Covid-19. Ci dà un'idea di quello che succede da voi? Ma dovrei consolarmi, per me sono solo 6 morti di cui solo uno positivo. La verità è che in Lombardia non si fanno i tamponi, non possiamo riscontrare la positività delle persone e quindi muoiono con i sintomi del Covid, quindi con iperpiressia, con difficoltà respiratorie. Però non avendo fatto tampone non possiamo certificare Covid. La realtà è quella che le ho detto, nell'ultimo mese 6 persone da noi su 125 ospiti sono morti con questi sintomi, uno solo certificato. Come procedete in casi di questo genere, posto che evidentemente non potete sapere nel momento nel quale avviene che è Covid-19, immagino che prendiate le precauzioni immediate affinché gli altri ospiti non vengano contagiati? Noi abbiamo una costante attività di rilevazione delle temperature e dei sintomi. È chiaro che nel momento in cui ci sono questi sintomi puntiamo a un isolamento individuale, che non è facile per questioni logistiche nella nostra struttura. Abbiamo deliberato e stiamo praticando un isolamento per reparti. Noi siamo strutturati, qui non si può che fare i conti con la logistica, abbiamo 6 reparti, 6 reparti sono isolati e quindi non ci sono interazioni di un reparto con l'altro. Il problema vero però è dato dai veicoli del virus. Come ben sappiamo, il problema fondamentale in queste strutture è dato dagli operatori che quotidianamente devono entrare in struttura e devono assistere le persone ospitate, che hanno quotidianamente necessità di medici, infermieri, ASA, OS, abbiamo la cucina, abbiamo i manutentori, abbiamo una serie di persone che non possono non entrare nella nostra struttura, ed è lì che bisognava e bisogna sviluppare l'attenzione. Non è stato fatto a sufficienza, a mio avviso. Senta Frigoli, immagino lei abbia contatti con strutture simili, almeno nel circondario. Sa darmi un'idea di quello che succede? Ma guardi, noi siamo una delle poche realtà dell'Alto Milanese, noi siamo collocati a Legnano, esattamente al confine fra la provincia di Milano e di Varese. Per tutta la prima fase nella nostra realtà eravamo solo noi a dar notizie e qualcuno ha erroneamente pensato che la nostra fosse l'unica struttura con dei problemi. Adesso purtroppo anche in altre strutture emergono criticità, casi positivi. Ho la sensazione che questa cosa, che non vengono fatti i tamponi, possa permettere a qualche struttura di cavarsela con l'idea di morti naturali, ma la realtà è ben diversa. Poi sappiamo, perché conosco personalmente colleghi direttori di altre realtà lombarde, sappiamo che purtroppo nel Cremonese, nel Bergamasco e nel Bresciano i dati sono purtroppo davvero gravi, molto più gravi dei nostri in percentuale. La ringrazio, grazie a Livio Frigoli, direttore generale della Fondazione Sant'Erasmo di Legnano, che gestisce appunto una residenza per anziani. Il tema della chiusura delle attività, qua c'è un ascoltatore che mi fa notare, dice, ma insomma non era stato lei, sei stato tu a a lamentarti all'inizio di questa vicenda della chiusura delle scuole, di provvedimenti eccessivi? L'ho già detto, l'ho ammesso, ho ammesso l'errore, ho fatto un errore di sottovalutazione su questa vicenda e lo ribadisco tranquillamente, insomma, su questo bisogna essere trasparenti, eh. Ripeto, per me è terra incognita questa, non è facile definire, ma per nessuno di noi, probabilmente nemmeno per i politici è facile capire esattamente i confini e i contorni di qualcosa di così epocale come questa epidemia, come questo spartiacque nelle nostre vite e nella nostra storia. Cioè, parliamo di un evento storico, ripeto, di qualcosa tutti citano non a caso la Seconda Guerra Mondiale come esempio per trovare un elemento di rapporto. La questione della chiusura delle attività, sulla quale, come si diceva, c'è qualche scontro, qualche polemica, i sindacati che dicono sono troppe le attività che si prevede che siano aperte, sono rigidamente elencate in una nota diffusa dal governo e che accompagna il decreto firmato dal Presidente del Consiglio. Verranno chiuse, dice Conte, ha detto Conte, sabato sera, in una... no, non era una conferenza stampa, era una diretta Facebook alle 23:15 di sabato sera. Verranno chiuse le attività non essenziali. Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo. La decisione assunta dal governo è quella di chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni, servizi essenziali. Adesso verremo tra un istante, dopo il traffico, al grande problema. Cosa è non essenziale? Ventiquattro mattino. Certo, le informazioni sul traffico in questi giorni. Va bene, cosa vuol dire non essenziale? Si fermano i cantieri, si ferma il settore dell'auto e della componentistica, immagino solamente in parte, cioè immagino che una parte dovrà rimanere aperta per sostenere la logistica. Si fermano i tessuti, il settore dei tessuti, il settore del tessile in genere, fatto salvo quello che si occupa per esempio di produrre i camici, abiti da lavoro e via dicendo. Si ferma il settore del mobile, la pelletteria. Si fermano ovviamente i tour operator, si ferma la rubinetteria, la metallurgia genericamente intesa. Ovviamente non si ferma l'alimentare, l'agroalimentare, non si ferma la farmaceutica, però come ben sappiamo, alimentare e farmaceutica, che cosa si portano dietro? Si portano dietro l'impacchettamento dei prodotti alimentari e farmaceutici e quindi le aziende che si occupano di questo e a catena le aziende che fanno carta o plastica per l'impacchettamento. Come capite, in un sistema industriale complesso, beh, anche gestire questa cosa è complicato. Veniamo però, facciamo un punto proprio sul settore agroalimentare. Fabio Massimo Pallottini è presidente di Italmercati e direttore generale del Centro Agroalimentare Roma. Buongiorno Pallottini. Buongiorno, buongiorno a lei. Di fatto rappresentate come Italmercati, insomma, quello che ci potete dare è un quadro dei, appunto, dei mercati coperti, che restano funzionanti, e scoperti che invece vengono chiusi, cioè quelli all'aperto in sostanza, Pallottini, no? Sì, allora noi rappresentiamo la parte dei mercati all'ingrosso, cioè quelle grandi strutture che riforniscono il taglio, riforniscono quindi anche i mercati su strada o i mercati coperti. Facciamo parte di questa filiera della distribuzione del cibo fresco. Sì. E siamo tra quelle attività che, come ha definito il Presidente, sono indispensabili e continuano a operare, diciamo, sia pure tra, ormai da diversi giorni, tra mille limitazioni, sempre più difficoltà, come è giusto che sia, perché i rischi sono parecchi, però siamo operativi. Nel frattempo intorno a noi sono successe una serie di cose che hanno cambiato anche la nostra attività. Quello che citava lei, per esempio la chiusura dei mercati su strada, anche se adesso alcuni si stanno organizzando recintando questi infrastrutture, perché il problema dei mercati su strada non è che non debbano essere aperti, è il problema di come gestire l'afflusso delle persone. Sì. No? Esattamente come, esatto, farlo esattamente come avviene nei supermercati, come ossia no, certo. mettere la gente in fila e farla entrare in maniera scaglionata. Ci sono problemi di approvvigionamento, pallottini? No, assolutamente. Ecco, io questo ci tengo molto a dirlo, a serenare e tranquillizzare i consumatori. Non c'è un problema di reperimento delle merci, sia di quelle industriali, diciamo, sia di quelle di matrice agricola. Il prodotto c'è, ce n'è anche in abbondanza, come succede in questa stagione. Siamo in questa è una stagione, per esempio, di passaggio per certi della stagione agricola. Stiamo passando dall'inverno, ormai siamo in primavera, cominciano i prodotti primaverili, e la disponibilità c'è, i prezzi sono, direi, tutto sommato piuttosto bassi. Sì. Quindi eviterei due cose, diciamo. Uno, un accavarramento così un po' sconsiderato, quasi che la paura, anche se comprensibile, di non trovare più il prodotto domani mattina, e quindi si pensa di riempire la dispensa con quella merce lì. L'altra, direi di fare una spesa un po' equilibrata, non solo prodotti a lunga conservazione, ma anche prodotti, anzi io direi soprattutto prodotti freschi, freschissimi, che si trovano, tutti i giorni arrivano, noi siamo aperti. Sì. Sì, è vero, pallottini dall'altra parte che raccomandano di fare la spesa il meno possibile, e quindi dal lato dei freschissimi è un po' più complicato. Però si faccia fare una domanda sul tema dell'approvvigionamento. C'è, da quel che risulta a voi, anche se voglio dire, voi ricevete queste merci, no? Non siete direttamente sui campi a lavorare, che ci sia un problema di manodopera, come denunciato da Coldiretti nei giorni scorsi, cioè lavoratori che non vogliono più andare nelle campagne, in particolare quelli stranieri, che spesso sono quelli che poi appunto lavorano. Problemi di manodopera ce ne sono sicuramente, ma ce ne sono un po' in tutti i punti. Io le voglio citare esempio banale: per trovare persone che sono disponibili a venire a fare ulteriori controlli, come dobbiamo fare noi nei nostri mercati, anche attraverso le società che fanno sicurezza, oggi non è facile. Non è facile perché tante persone hanno paura di essere esposte a un rischio, come in parte tutto. E quindi questo succede anche nei campi sicuramente. Sì, e quindi un po' dappertutto. Ultima domanda, pallottini: la chiusura di Fondi, siamo in provincia di Latina, diventa zona rossa ed è uno dei mercati all'ingrosso dell'ortofrutta più importanti d'Italia, forse, se non vado errato, pallottini, il più importante o quantomeno del centro-sud Italia. Questo crea un problema? Allora, Fondi è un mercato importantissimo, soprattutto come mercato alla produzione, diciamo, no? Il mercato sta lavorando, quindi, però da quello che mi risulta lavora tra molti disagi, perché si trova all'interno di una zona in cui è difficile accedere e da cui è difficile uscire. Però dai dati del nostro stesso, io seguo ovviamente da vicino la struttura di Roma, che ha con Fondi un rapporto strettissimo, ovviamente particolare. Naturalmente il primo giorno c'è stata un po' di confusione, soprattutto per l'afflusso delle merci. Roma riceve merci dalla pianura Pontina, no? Di cui Fondi un po' l'hub di distributivo. Sì. E in un primo momento sembrava che la lettura stretta dell'ordinanza che non potessero neanche uscire le merci. E invece possono, in realtà le merci possono uscire. Pure con tante limitazioni, gli autisti non possono scendere dai cani, ci sono tanti problemi. Però escono, grazie Fabio. Però Massimo. Escono il lavoro. Grazie Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati, direttore generale del Centro Agroalimentare di Roma. E a chiudere la scienza è Giacomo Gorini, è immunologo presso il Jenner Institute dell'Università di Oxford. Lo ringraziamo particolarmente perché penso che per lei siano le sei del mattino esatte in questo momento. Gorini, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Lei fa parte di un team che lavora, tra l'altro, sul vaccino per Covid-19. Ci può dare un'idea di a che punto siamo? Sì, allora, il nostro istituto appunto sta lavorando su questo vaccino. Alcune dosi sono pronte per degli studi preliminari e puntiamo di iniziare i test sull'uomo nel giro di un mese. Poi tutto può succedere, ma queste sono le tempistiche che ci aspettiamo. Da quel momento in poi ci vorrà comunque qualche settimana per appunto eseguire il test sull'uomo, poi c'è lo studio dei risultati, insomma ci vorrà del tempo. I tempi solitamente dalla prima sperimentazione sull'uomo quanti sono? Cioè se il vaccino è azzeccato ovviamente, Gorini. Sì, infatti sì, certo, il vaccino deve funzionare, sì. Questo non lo possiamo dare per scontato. E che lei ha chiesto solitamente, questa non è una situazione solita. Ci si aspetta che magari nel giro di un anno e mezzo si potrebbero avere dei risultati che danno possono dare la luce verde, ecco, per procedere con l'uso più ampio su uomo. Però di nuovo è una situazione che non si verifica molto spesso, quello in cui ci troviamo. Sì, tanto che alcuni farmaci per la cura, alcuni antivirali vengono sperimentati in un modo nel quale normalmente non vengono sperimentati, cioè vengono sperimentati direttamente sul campo, no? Sì, questo è un uso compassionevole. Lei ha ragione, in effetti se proprio dobbiamo aspettare un intervento farmacologico, allora è più probabile che ci sia una terapia prima di un vaccino, però è anche vero che di sti tempi sembra che ogni giorno salti fuori una cura nuova che funzionerà certamente. Io invito gli ascoltatori a rifarsi alle fonti ufficiali, Istituto Superiore della Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità, perché anche questi farmaci che possono mostrare una certa promessa devono essere testati sul campo con rigore. Sì, si parla in queste ore dell'antimalarico, si parla molto dell'antimalarico che verrà sperimentato in Francia, no? Se non vado errato. Sì. Da là arriva qualche speranza, Gorini, oppure no? Io penso che le speranze che arrivano qua sono le stesse che arrivano in Italia, vale a dire c'è il farmaco antimalarico, c'è l'anticorpo monoclonale generalmente prescritto per artrite reumatoide, ce n'è un altro ancora. C'è speranza, ma bisogna di nuovo testarli, speriamo che vada tutto bene, ma ci vorrà del tempo. Per quanto tutti vorremmo che da un giorno all'altro arrivasse la cura miracolosa che ci toglie il problema. Grazie per essere stato con noi, a Giacomo Gorini, immunologo al Jenner Institute dell'Università di Oxford, che ci ha aiutato a fare un punto su vaccini e cure. Andiamo a chiudere Peter Bescapè col nostro inno. Via, via. Ancora, lo ripeto sempre, è il nostro modo di farci coraggio, il nostro modo di farci coraggio. Molte storie e molti elementi interessanti anche dai giornali su Covid-19. Ne parliamo subito dopo GR24, dopo.